Marata. Sanctus, Sanctus Dominus. Buonasera a tutti, buonasera amici di Radio Cage e soprattutto amiche di Radio Cage. Certo. Un nuovo appuntamento con Testa Croce Show dopo queste note gioiose. Quali? Queste note gioiose che abbiamo ascoltato. Ancora, vogliamo commentare ancora la sigla dopo 25 minuti. Non l'abbiamo mai fatto, quasi mai fatto. Note gioiose in onore abbiamo a Maria. Abbiamo commentato di più la sigla di Guillaume. Sì, decisamente, poi tanto, che poi tanto sentiremo, assolutamente sì. Dunque, diciamo subito, siamo qui con un ospite, con un anzi più di uno, ma uno ufficiale, gli altri non sono ufficiali. Gli altri sono invisibili, quindi non li sentirete. Il nostro ospite è Massimiliano Quartarone, che è il vescovo della locale comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuto Massimiliano e starà con noi per tutta la puntata. Vabbè, come sapete la Chiesa in questione è molto giovane, quindi rientrerà nella nostra rubrica novità assoluta. È la nostra novità assoluta, senz'altro, sì. Però prima della novità assoluta ci sono tantissime cose, tra cui ricordiamo subito i nostri contatti anche per il concorsone esistenziale che è concluso la serie di domande, quindi ci apprestiamo entro insomma la fine dei tempi proclamare il vincitore. Comunque, e anche il premio, perché non l'abbiamo ancora. Anche il premio perché noi vogliamo invogliarvi non dicendovi qual è esatto, il premio, se lo diciamo non partecipate. Una strategia un po' obliqua. Infatti sta funzionando benissimo. Sì. Dunque allora testacroceshow@gmail.com. Sì, e lo Skype è testacroceshow. Scriveteci anche durante la diretta per interloquire con noi, per rispondere alle nostre domande, alle vostre riflessioni su quello che diciamo e per porre domande al nostro ospite eventualmente. Più che volentieri. Sì. E il blog testacroceshow.blogspot.com, in cui trovate i podcast. Credo fino alla 20ª puntata per il momento. E ricordiamo le domande. Allora, la prima era: qual è il vostro senso della vita? Sì, poi se gli esseri umani e gli animali hanno lo stesso valore, sono sul stesso piano. E un uomo tiene un'oca dentro una bottiglia. L'oca cresce e cresce fino a non passare più dal collo della bottiglia. Come si fa a far uscire l'oca dalla bottiglia senza rompere la bottiglia e senza uccidere l'oca? Questo era un koan dello Zen. Sì, e poi se questo fra l'altro è molto interessante anche per la Chiesa di oggi, il messaggio divino deve essere aggiornato oppure deve essere con carattere una eterno, volta per immutabile. Tutte, sì. Bene, direi che partiamo con l'almanacco, no? A questo punto parliamo con l'almanacco. Partiamo con l'almanacco. Eccola la sigla, il jingle che abbiamo menzionato prima. Il nostro carissimo amico Guillaume. Sì, io. L'ho visto sabato sera, era in forma. Va bene, oggi è 3 maggio. Si celebrano San Filippo Apostolo, San Conlaedo, San Giovenale di Narni, San Teodosio di Pecersk, non so come si pronuncia, Sant'Ansfrido di Utrecht e Santa Viola. Bene, poi ricordiamo la scomparsa di Johann Ludwig Bach, compositore tedesco, uno dei tanti della Bach. Della saga dei Bach. Sì. E di la scomparsa di Ayrton Senna, il pilota di Grand Prix, insomma, di Formula 1, brasiliano, morto in un incidente appunto durante un Gran Premio. E poi celebriamo la nascita invece di Paracelso, il notissimo alchimista, potremmo dire chimico ante litteram, ecco. Poi di Kamehameha, che è il re hawaiano, è nato nel 1738. Di Calamity Jane, anche se comunque era una ucciditrice di indiani, quindi non la ricordo con piacere, però è un nome. Poi Teilhard de Chardin, un nostro teologo, collega, no? Assolutamente sì, teologo naturalista. Sì, Ignazio Silone, novellista e nonché politico. Giovanni Guareschi, scrittore, anche lui è autore di Don Camillo e Peppone, fra le altre cose. John Woo, regista. E un altro letterato, Niccolò Machiavelli. Giusto, e poi anche giusto. Il compleanno di Pete Seeger, cantautore folk americano, Giorgio Bercardi, Umberto Galimberti, il filosofo, Deborah Caprioio e Dario Vergassola. Auguri a tutti questi. Auguri a tutti costoro. Sì. E a questo punto salutiamo il nostro Guillaume. Sì. E direi che partiamo con un pezzo, no? Direi di sì, assolutamente, per Dunque. Darci la carica. E allora ci ascoltiamo un pezzo di una band canadese, dei Rush, dal secondo album, Caress of Steel. E questa roba è Bastille Day, il giorno della Bastiglia. Benissimo, ce lo ascoltiamo. Blame the Rieccoci qua in onda. Rieccoci in studio con Massimiliano Quartarone, vescovo di Livorno della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Ma tanto non vi crea problemi essere chiamati semplicemente mormoni, giusto? La chiesa di Mormon può andare bene come... No, la chiesa di Mormon no, non del tutto. Ho fatto la gara. Perché veniamo soprannominati mormoni appunto perché uno dei nostri libri di riferimento è appunto il libro di Mormon. Sì, certamente. È più un soprannome che però accettiamo tranquillamente perché ormai la maggior parte ci appunto chiama in questo modo. Bene, dopo avremo modo di presentare più. Ma diciamo che è anche più handy, no? È sì, un po' più... perché è più breve, semplicemente. È più breve, sì, è più facile. Ma voi usate un... non so, un nome più ristretto anche tra di voi che non sia mormoni oppure no? No. Benissimo, allora ne parleremo ancora durante la puntata. Io sento tutto un eco, però sento un eco che prima non sentivo, però probabilmente abbiamo un ritorno un po' eccessivo, si torna troppo. Sì. Diciamo. Beh, l'eco questo. No, ritorna, è proprio una questione. Sì, sì. Comunque, intanto ci affidiamo al nostro Fede che cura la regia della trasmissione, come sempre. Ci affidiamo alla Fede. Ci affidiamo alla Fede, esatto. Ma è giusto, adesso va meglio, sì, adesso sì, non c'è più quell'eco. Benissimo. Va bene. Allora, volevo dirvi brevemente che ho ricevuto un'email, sempre per la serie Sanno dove abito, un'email da... inizio a leggervela. Salve, la saluto nel nome del Signore. Mi chiamo Pietro e predico il Vangelo dicendo a tutti che la salvezza si ottiene solo per mezzo di Gesù Cristo, di ciò che Lui ha fatto sul Calvario. Ancora oggi il Signore continua a chiamare ogni essere umano all'obbedienza della sua santa parola, eccetera, eccetera. Per questo motivo le ho scritto per farle sapere questo. Legga il trattato in allegato scritto da un uomo di Dio e se è interessato mi faccia pure sapere. Abbiamo a disposizione molti sermoni di questo fratello Branham che distribuiamo gratuitamente. Egli ha avuto un compito dal Signore di parlare a tutto il popolo di Dio. Gesù Cristo sta tornando, come dice la Bibbia. Sei tu pronto ad incontrarlo? Le auguro le migliori cose. Voi ricordate che abbiamo parlato dei branamiti, branamismo qualche puntata fa. E casualmente mi arriva questa lettera in posta. Non è casuale, insomma, hanno apprezzato non so. La puntata che abbiamo dedicato al culto, no? Bene, io invece... Tu invece avevi un'ansia, sì. Allora, una notizia in realtà di un paio di settimane fa, il 23 aprile 2012, ma è molto importante secondo me, da Washington, da Religion News Service di Washington. Al grido di mai più, utilizzato durante il giorno per la memoria dell'Olocausto, il presidente Obama ha giurato lo scorso 23 aprile di combattere le atrocità umane su tutto il globo, in nazioni come Siria e Iran. Parlando al US Holocaust Memorial Museum, il presidente ha annunciato che il nuovo Atrocities Prevention Board si sarebbe riunito per la prima volta lunedì. Ha anche svelato un nuovo ordine esecutivo che autorizza sanzioni ulteriori contro Damasco, Teheran e i loro sostenitori che utilizzano tecnologie di controllo del traffico telefonico cellulare per commettere gravi abusi dei diritti umani. Queste tecnologie dovrebbero esistere per tutelare i cittadini, non per reprimerli, ha detto Obama in un solenne discorso di 25 minuti davanti a 400 persone, composto da sopravvissuti, attivisti e diplomatici. Ed è un passo in più che possiamo compiere verso il giorno in che tutti sappiamo arriverà, la fine del regime di Assad che ha brutalizzato il popolo siriano e consentirà a esso di stabilire il loro stesso destino. Il sopravvissuto dell'Olocausto Elie Wiesel, che si è presentato al presidente, si è chiesto ad alta voce se il mondo ha imparato una lezione dall'Olocausto, considerato che i regimi di Bashar al-Assad e Ahmadinejad proseguono. E poi dice: la più grande tragedia nella storia avrebbe potuto essere impedita se il mondo civilizzato avesse parlato, prendendo misure tra il 39 e il 42, ha detto. Abbiamo imparato qualcosa? Se così è, come mai il presidente Assad ha ancora il potere? Come mai il principale negazionista dell'Olocausto, Ahmadinejad, è ancora presidente, colui che minaccia di usare armi nucleari per distruggere lo Stato ebraico? In realtà non ha mai fatto questa minaccia, come Ahmadinejad, devo dire per correttezza. Forse non l'hai semplicemente sentito, no. Ascoltando qualche altro... una trasmissione radio, per esempio. No, concludo comunque. Come Obama ha incoraggiato iniziative, questo è Elie Wiesel, sopravvissuto dell'Olocausto, ha incoraggiato iniziative per prevenire ulteriori atrocità. Le misure preventive sono importanti, ha detto Wiesel. Dobbiamo usare quelle misure per prevenire un'altra catastrofe. Ecco, questa è la parte più interessante poi della notizia, che secondo me fa capire quanto, ancora una volta, quanto Obama stia in realtà presentando quello che sarà la prossima azione militare degli Stati Uniti, ecco, perché diciamo è poco fraintendibile la sua politica in questo senso. Le menzioni della Siria e dell'Iran e misure preventive contro di loro sono sempre più frequenti. Quindi, bisogna un tasto molto dolente. Sì. E proprio oggi, tra l'altro, lo dico velocissimamente, che in America è il National Day of Prayer, cioè ogni primo giovedì di maggio si celebra questa, appunto, questa giornata, che è proprio a livello statale, quindi laicità, separazione, che è stato zero, comunque statalmente dedicata alla preghiera, al ricordo di, insomma, di Dio, e la Freedom from Religion Foundation sta promuovendo una protesta che ha preso la forma del National Day of Reason, celebrato, che vogliono essere celebrato nello stesso giorno. E beh, per documentarvi potete vedere i siti nationaldayofprayer.org oppure nationaldayofreason.org. Benissimo, bene, ci auguriamo che se vincerà invece la sfidante di Obama, probabile Mitt Romney, ecco, avrà una politica diversa, magari ce lo dirà poi nel corso della puntata. Massimiliano, certo, anzi sicuramente è un tema che tratteremo. Beh, entriamo appunto nel vivo della novità assoluta, della novità assoluta di oggi, e quindi partiamo dall'inizio, come si esatto fa, come inizia la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Certo, allora, prima di tutto va detto che il fondatore della Chiesa, o per meglio dire il restauratore di essa, si chiamava Joseph Smith Jr. E lui nel 1820 ebbe una visione in cui appunto vide Dio Padre Gesù Cristo, e questa visione è una conseguenza a una sua preghiera, in quanto lui frequentava varie chiese a quell'epoca, però non riusciva a determinare quale fosse quella giusta. Varie chiese cristiane? Varie chiese cristiane, esatto. E quindi, non riuscendo a trovare delle risposte soddisfacenti, lui rimase colpito, leggendo la Bibbia, da un versetto che diceva che se qualcuno di voi, inteso come umanità, inteso come figli di Dio, ma anche di sapienza, che la chieda a Dio, che liberamente dà a tutti gli uomini. Diciamo, questo è un invito che in realtà troviamo spesso nelle scritture. Pensiamo anche a Gesù Cristo quando dice bussatevi, sarà aperto. Sì. Lui in qualche modo ci invita a presentarci a Lui, a chiedere a Lui, e questo ha fatto proprio Joseph Smith. In preghiera ha chiesto a Dio quale fosse la chiesa a cui si doveva unire in quel momento, e in risposta a questa preghiera avvenne questa meravigliosa visione miracolosa, dove Dio Padre e Gesù Cristo appunto gli dissero di non unirsi a nessuna chiesa, che avrebbero successivamente mandato dei messaggeri per spiegare a lui qual era la strada da seguire. E successivamente lui ebbe varie visioni da parte di personaggi anche biblici, fino al momento in cui gli venne indicata una collina dove poter trovare delle tavole d'oro, in cui era incisa la storia degli antichi abitanti delle Americhe nel periodo prima della scoperta della stessa. E lui tramite opera divina sono queste tavole? Sono state scritte dai profeti dell'epoca, quindi da parte delle persone che hanno abitato nel continente americano prima della scoperta appunto di Colombo. E queste tavole, che poi oggi conosciamo come il Libro di Mormon, in quanto sono state tradotte dallo stesso Joseph Smith, viene narrata la storia di alcune famiglie che da Gerusalemme partirono, in realtà erano due famiglie che partirono da Gerusalemme per una terra promessa, che poi noi sappiamo essere appunto il continente americano, e lì svilupparono tutta la loro civiltà e tutta la loro storia, che troviamo nel Libro di Mormon. Sì, certamente. Bene, proseguiamo dopo un po' facciamo un stacco musicale. Prendiamoci una breve pausa, e la breve noi pausa abbiamo però... capito di cosa stiamo parlando. Sì, esatto. Però non lasciamo l'argomento, perché appunto in questa confessione, diciamo, in questo ambito di credenze, si collocano anche dei nomi celebri, tra cui quella della band degli Osmonds. Nel momento in cui i giovani componenti della band partivano per la missione, poi Massimiliano ci spiegherà che cos'è questo partire per la missione, nel 1973, durante questo periodo, registrarono questo album dal nome The Plan, che è tutto incentrato su tematiche appunto religiose relative a questo credo, e ci ascoltiamo il brano Going Home da questo album The Plan degli Osmonds. I gotta make Rieccoci qua. Rieccoci, cari ascoltatori e ascoltatrici. Stiamo parlando con Massimiliano Quartarone dei Mormoni, cioè della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ecco, tutto il nome completo. Stavamo appunto vedendo come era iniziata questa nuova chiesa, no? Sì. E stavamo vedendo la vicenda di Joseph Smith, della sua visione. Come poi diventa chiesa? Esatto, allora diventa chiesa nel 1830, quando ormai il Libro di Mormon viene tradotto e stampato, insieme alla Bibbia, diciamo, fa parte del credo iniziale di quegli anni della nostra Chiesa, e in quanto, diciamo, mezzo che esorta le persone a venire a Cristo anche tramite il battesimo, molte persone ricevono, così come Joseph Smith, una risposta, chiaramente non una visione di Dio. Beh, Padre, sì. Di Gesù Cristo, perché non è per tutti, si può pretendere. C'è un'elite, o comunque, però, diciamo, tramite un'esperienza personale, dove, che noi chiamiamo una testimonianza, cioè una sicurezza che è dentro ciascuno di noi, queste persone si sono unite alla Chiesa, e quindi mano a mano il numero dei fedeli è sempre cresciuto nel tempo, e quindi in questo modo si sviluppa la Chiesa. E in realtà, parallelamente allo sviluppo della Chiesa, si crea anche una corrente antimormone, chiamiamola così, per cui avete avuto molte persecuzioni nei primi tempi, sì, esattamente. Con delle azioni anche violente nei confronti dei mormoni, che venivano cacciati dalle città che poi loro fondavano, eccetera. E lo stesso Joseph Smith, no? È rimasto vittima di queste... Lo stesso Joseph Smith nel 1844 venne imprigionato con un'accusa non vera, in quanto era stato accusato di aver distrutto una tipografia, e a seguito di questa prigionia alcune persone entrarono dentro il carcere e barbaramente uccisero lui e il fratello Hiram con i fucili, chiaramente, quindi ci fu un vero e proprio martirio. C'è un motivo particolare per questa persecuzione? Diciamo che noi non lo riconduciamo poi a un motivo particolare, non so, forse i mormoni sono sempre a tutt'oggi conosciuti per essere delle persone molto laboriose, che si impegnano in tutti i campi di loro interesse, quindi molto probabilmente questo un po' disturbava le persone, i vicini. Sì, beh, in realtà c'è molta confusione su di voi, in realtà, forse, cioè, saprai sicuramente che spesso venite confusi con gli Amish, esatto. Qualcuno pensa che voi siete quelli che non utilizzano l'energia elettrica, sentito spesso dire, invece non è, sì, infatti penso che faremo abbastanza chiarezza e oggi. E poi nella cultura popolare ci dicevi fuori onda che diciamo la parola mormone è collegato al pionierismo, no, in America. Esattamente, sì, infatti veniamo anche spesso ricordati per questo viaggio pionieristico, che a seguito, negli anni successivi alla morte di Joseph Smith, venne intrapreso dai santi dell'epoca, che dovettero emigrare quindi dall'est all'ovest e fondarono una città che tutt'oggi è una capitale importante degli Stati Uniti, Salt Lake City, nello stato dello Utah, che viene spesso conosciuto come uno stato mormone, in quanto, vabbè, gli abitanti... Certo. Appartenevano e appartengono tuttora molti di essi alla Chiesa. E c'è il fulcro della religione, poi c'è anche il tempio più grande, giusto? Il tempio, sì, principale. Sì, sì, esattamente. Ecco, leggo che appunto venne dedicato il 6 aprile 1893. Passiamo, diciamo, all'aspetto delle credenze. Sì, sì, sì, sì, perché no? E quindi lascio innanzitutto a te la parola, nel senso che cosa vi distingue dalle altre confessioni cristiane, almeno gli aspetti principali? Beh, diciamo che... Oltre naturalmente a riferimento chiaramente alla storia di Joseph Smith al Libro di Mormon. Certo, certo. Beh, diciamo che principalmente noi portiamo un messaggio semplice, cioè che mediante Gesù Cristo Dio ci ha indicato la via affinché noi, come figli suoi spirituali, ovunque ci troviamo, possiamo condurre una vita più felice e migliore, sia in questo mondo che in quello a venire. quindi una volta che noi non saremo più su questa terra, perché naturalmente viviamo e poi moriamo. E crediamo che Dio sia nostro padre spirituale, di avere un fratello maggiore, il fratello maggiore Gesù Cristo, e crediamo anche nello Spirito Santo come terzo essere, anche se non diverso rispetto a Dio Padre e a Gesù Cristo. Quindi siete trinitaristi comunque? Esattamente, sì. Avevo letto che c'erano delle, insomma, invece delle controversie su questo fatto, infatti volevo chiederlo, ma infatti abbiamo già parlato. Come tre personaggi distinti. Sì, sì, perfetto, quindi perfettamente trinitaristi. E poi, ecco, parliamo del... Di come appunto del ruolo che ha Dio e della sua funzione nella vostra chiesa rispetto alle altre cristiane, ecco, cioè quindi il rapporto fra Dio e il fedele, il fatto che il fedele può diventare Dio, e quindi che è una cosa molto particolare del vostro diciamo culto, secondo me. Prima di tutto il rapporto tra Dio e il fedele è un rapporto stretto, come può essere quello tra un padre e un figlio. Quindi crediamo che noi tramite la preghiera possiamo comunicare con Lui e possiamo ricevere da Lui anche le istruzioni per dirigere la nostra vita, per svolgere la nostra vita al meglio. Chiaramente queste istruzioni sono sempre compatibili con il Vangelo e i comandamenti, questo è chiaro. E poi il nostro obiettivo finale è quello di, appunto, tramite l'obbedienza ai comandamenti, un giorno poter diventare perfetti come è perfetto Dio Padre. Quindi in questo nostro progresso, in particolare nella vita che svolgiamo in tutti i giorni, noi ci impegniamo affinché i comandamenti possano essere veramente, diciamo, possono ispirare la nostra vita, tutti i gesti della nostra vita. Ecco, giusto? Perché appunto la vostra vita comunque è un cammino continuo, no? una crescita, un cammino continuo. Che ha già anche intrapreso quello che attualmente è il Dio che voi venerate, perché questo è un aspetto molto interessante, che il Dio che voi venerate un tempo era anche lui un mortale. Era anche lui un mortale che poi attraverso questo cammino di verso la perfezione ha raggiunto quello che chiamate lo stato di esaltazione, no? Esattamente. Ecco, a cui ambisce ogni fedele della vostra chiesa. Ecco. Perché quello è lo stadio massimo, quello che diciamo dà la felicità massima. Questa è una cosa curiosa, no? Perché appunto, come dicevamo anche fuori onda, nel nostro contesto religioso la nozione di un Dio antropomorfo proprio di materiale è andata un po'... C'è anche il fatto che proprio visto è quasi un... non è solo una figura, ma è un ruolo anche qua, cioè si diventa che anche quindi, il fedele naturalmente attraverso un percorso può assurgere e può, diciamo, a livello occidentale e può trascendere molto la condizione umana, che in effetti è una cosa che in altre regioni si trova raramente, ecco, mettiamola così, nell'ambito occidentale. Però poi c'è il discorso che poi vorrei riprendere sul fatto del ricevere istruzioni, no? Rivelazione continua. Questo è un aspetto molto interessante che secondo me è anche molto positivo. Però direi di fare un'introduzione. Anche, appunto, ricordiamo che anche noi avevamo posto una domanda. Fra l'altro chiedo scusa, prima ho messo un errore nella domanda, quella sulla pari dignità di tutte le specie animali. In realtà era del concorso precedente. Era un ciclo precedente. C'è una nuova tratta dalle stanze di Zien, se l'universo è finito o infinito, se è finito cosa c'è al confine dell'universo. Questa è una domanda valevole per il concorso. Sì, abbiamo proposto come sempre ai nostri ospiti di partecipare alla playlist. E cosa ha scelto Massimiliano Quartarone? Io avrei scelto un brano preso dal coro del Tabernacolo, che è il coro ufficiale della nostra chiesa, e la canzone, l'inno, si intitola Christ the Lord is Risen Today, cioè Cristo è risorto oggi. Ecco, tra l'altro il coro del Tabernacolo ha una trasmissione radiofonica settimanale dal 15 luglio 1929. Sì, sì. Pensate. quindi sono colleghi. va in onda ancora oggi. Ci ascoltiamo questo inno. rieccoci qua, sempre a parlare di Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Devo dire molto bello questo inno, cioè, sì, mi ha ricordato... poi è una bella orchestra corposa, tanti sì, elementi. Poi mi ha ricordato anche la mia permanenza in un coro, che ricordi, anch'io avevo sì, ora, un mio repertorio. A parlare dell'infanzia. È un inno, diciamo, pasquale, però visto che siamo... Sì, siamo più o meno... Sì, sì, sì, sì, sì. Dunque, vi vado a leggere un passo dal libro Teachings of the Prophet Joseph Smith, che appunto è relativo al fatto al concetto di rivelazione continua. Ecco, Dio ha detto, non devi uccidere, e in un altro tempo ha detto, tu devi distruggere completamente. Questo è il principio con cui è governato il paradiso, il cielo. E dà una rivelazione che si adatta alle circostanze in cui i figli del regno, in cui si trovano i figli del regno, circostanze in cui si trovano appunto i fedeli, poi sostanzialmente. Quindi qualunque cosa Dio comanda è giusto, non importa cosa sia, anche se non possiamo a volte non vederne la ragione, e quindi vabbè, sì, poi continua. Comunque questo è il passo più importante, appunto. Ecco, quindi, è una delle cose che a me personalmente, che io personalmente trovo positive, anzitutto il fatto che secondo questa chiesa, questa confessione, il peccato originale non basta da solo a condannare la persona. Questo sì, lo trovo sì. Un passo avanti enorme. Poi, infatti il battesimo non serve per mondarsi dal peccato, e poi questa rivoluzione continua, che secondo me è una democratizzazione in qualche modo della verità e del rapporto con Dio, sì, diciamo, straordinaria. Le novità assolute hanno più facilmente questa tendenza, sì, però perché, però insomma, però comunque è positiva. È positiva, ce ne vuoi parlare brevemente di questo concetto? Certo, diciamo che per quanto per noi le scritture siano importanti, quindi abbiamo la Bibbia, il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e la Perla di Gran Prezzo, che sono appunto i nostri libri di riferimento, però il mormonismo non è una religione del libro, cioè crede appunto nel canone aperto e nella guida tramite la rivelazione continua da parte dei profeti viventi. E ad oggi la Chiesa è guidata da un profeta, Thomas S. Monson, che è anche il presidente della Chiesa a livello mondiale. Ordinato nel 2008, giusto? Esattamente. 3 febbraio 2008. E questo è assistito da due consiglieri e insieme formano la prima presidenza. E la prima presidenza poi è coadiuvata da un consiglio di 12 apostoli, i quali sono tutti considerati dai fedeli profeti moderni. E sono la reincarnazione degli apostoli originari? O non sono, no, la reincarnazione, okay. Però hanno, diciamo, lo stesso potere, perché sì. Diciamo, a un certo punto, tramite la restaurazione della Chiesa, c'è stata anche la restaurazione del sacerdozio, che è il potere di Dio sulla terra. Quindi tramite questo potere... E ognuno ha una propria chiamata, un proprio compito e anche delle chiavi, noi chiamiamo così, quindi dei gradi di sacerdozio per poter servire nella Chiesa. E comunque sono tutte cariche elettive, elette democraticamente, con la partecipazione anche dei fedeli, sì, no? Diciamo che non funziona proprio come un'elezione come siamo abituati noi a vedere in ambito politico, no, però sicuramente il fedele partecipa alla elezione di ciascun singolo, non solo profeta, apostolo, ma singolo dirigente. Anch'io, ad esempio, a luglio dello scorso anno sono stato chiamato come vescovo della Chiesa e i fedeli di Livorno mi hanno sostenuto, quindi hanno alzato la mano destra tutti quanti per dare un voto di sostegno e un voto favorevole alla mia chiamata. Se ci fosse stato qualcuno contrario, avrebbe potuto liberamente esprimere il suo voto contrario nello stesso modo, alzando la mano, e quindi una volta chiarito le motivazioni, i dirigenti che sono al di sopra di noi, come chiamata, come sacerdozio, avrebbero preso le dovute decisioni. Quindi date spazio al dissenso, diciamo. Esattamente. Ma capita poi a livello pratico? Io sinceramente non ho mai visto nessuno alzare la mano contraria, però viene chiesto espressamente, se vi è qualcuno contrario lo può manifestare alzando la mano destra. D'altra parte, che motivo ci sarebbe, no? nel trattenersi, insomma, se ci fosse un dissenso, perché uno dovrebbe nasconderlo, mi domando. Certo, certo, infatti. C'è comunque dunque abbiamo parlato di elezioni in un certo senso, quindi entriamo in questo noi ambito. Abbiamo seguito abbastanza da abbastanza di frequente la vicenda di Mitterrand, con questo... telefonate continue, no? Noi abbiamo qui in studio il telefono, la linea rossa, no? Per, ci collega direttamente con i, diciamo, candidati americani. Che mi sono appassionato un po' alla vicenda delle primarie presidenziali, e a questo punto possiamo dire che il candidato Mitterrand, che appunto è un membro della Chiesa, è un insomma un papabile nuovo presidente degli Stati Uniti, sì. O comunque giocherà con Obama. Certo. Io vi leggo brevemente alcuni dati di un sondaggio fatto da Gallup, in cui si vede che dividendo le persone fra molto religiose, moderatamente religiose e non religiose, e va bene, per molto religiose si intende che la religione è una parte importante della vita giornaliera, c'è cioè una frequenza almeno di una volta a settimana alla chiesa, moderatamente tutto il resto, e non religiose, vabbè, è evidente. Ecco, si è visto che l'ipotesi di voto sono queste: tra i molto religiosi 37% Obama, 54% Romney, quindi un grosso vantaggio, diciamo, molto significativo tra persone molto religiose. Invece, se quando si va sui moderatamente religiosi, il vantaggio di Obama torna abbastanza significativo, 54% contro 40, e tra i non religiosi addirittura 61% contro 30. Non casualmente. No, certo. E quindi volevo chiedere un commento a Massimiliano. Certo. Beh, prima di tutto va chiarito che non esiste nessun interesse da parte della Chiesa nella candidatura di Mitt Romney, né di qualunque altro appartenente alla Chiesa in qualsiasi nazione o per qualsiasi carica politica. La missione della Chiesa è quella di predicare il Vangelo di Gesù Cristo e non quella di eleggere i politici. In materia di partiti politici, la Chiesa osserva una ferma neutralità. E i fedeli sono, ci dicevi, trasversalmente presenti, esatto, no? Anche di varie ideologie politiche. Ecco, sì. Infatti basti pensare che voi avete citato l'esempio americano, riallacciandomi a questo, sì. Nel Senato americano una parte degli eletti nel file dei democratici fa parte della Chiesa, così come una parte degli eletti nel file dei repubblicani. Certo. Questo appunto perché la Chiesa non prende una posizione nei confronti della politica, in quanto non, proprio è un argomento che sì. non interessa. Ma non è una cosa banale, no, che ufficialmente la Chiesa affermi la separazione fra Stato. Infatti e volevo anche rimandarvi a un sito internet che rilascia una dichiarazione ufficiale in merito proprio a questa neutralità, se posso lasciarlo. Certamente. Certo, sì. media-mormoni.it, e lì trovate tutti gli articoli, tra cui per i media, un sito di news comunque, esattamente, sì, con tutte le news che riguardano la nostra Chiesa, e lì c'è anche un articolo che parla appunto della neutralità della Chiesa in merito a queste elezioni. Ecco, però la neutralità in merito a, diciamo, al candidato è una cosa, mentre, diciamo, se Mitt Romney dovesse diventare poi effettivamente sì. presidente degli Stati Uniti d'America, vi aspettate comunque una linea politica in linea con i valori della vostra Chiesa oppure no? Per esempio, voglio dire, sulle questioni, no, che in genere vedono nei nostri in Europa l'ingerenza sì. delle Chiese, per esempio omosessuali, eutanasia o cose del genere. Beh, questa domanda sarebbe più da farla a lui, a Mitt Romney, se Mitt Romney l'abbiamo fatto, se vuole partecipare. No, ma dico, voi ve lo aspettate eventualmente o no? Torno a ripetere, ufficialmente la Chiesa, non avendo una posizione, chiaramente non ha un'aspettativa nei confronti, benissimo, anche perché indipendentemente dal fatto che fosse Romney il prossimo presidente degli Stati Uniti oppure no, il lavoro della Chiesa continua sempre comunque come ha fatto prima. Non sì, sì, certo. No, allora, l'unica cosa, appunto, come ricordavo anche nel fuori onda, essendo nei principi della Chiesa anche il proselitismo, quindi espandere il proprio numero di fedeli, diffondere comunque il culto, chiaramente sarebbe un bel probabilmente un bel sì, vantaggio anche indiretto, anche senza un'attività. Ma lo è già, vuol dire che se ne parla molto di più. No? Noi non ci siamo fatti influenzare da noi questo. Non ci siamo assolutamente commentato sicuramente anche senza davvero. Anche perché poi ci sono molti argomenti interessanti, come si diceva prima anche fuori onda, ad esempio la costruzione del tempio a Roma, sì, che sì, è il primo tempio in Italia che verrà costruito. Adesso passeremo a parlare proprio della realtà italiana. Abbiamo detto che verrà ultimato nel 2014. Sì, nel 2014. Passeremo a parlare della, appunto, della realtà italiana, però direi dopo facciamo un facciamo uno stacco. Vado io? Musicale, sì. Vado io, allora ci ascoltiamo Lego di Io Carlo. Lego latino. Lego gioco Lego di parole Legis. Tra no, Lego gioco di parole tra Lego, i mattoncini e l'apostrofo ego. Ah, latino niente. Grandi da poter contenere tutte queste gianfrusaglie costruite, trasportate, comprate, rivendute. Non mi interessano i bollini della spesa. Bentornati in onda. Siete andati a mettere l'acqua per la pasta. Direi di sì. E noi invece e noi siamo qui ancora a parlare ancora, un pochino con Massimiliano Quartarone. Così. E volevo dire soltanto una cosa su Colob, molto velocemente, perché nel diffondere questo appuntamento l'avevo accennato, sì, e quindi è un, appunto, un pianeta o stella che è descritta nella scrittura mormone, nel libro di Abramo in particolare, in cui appunto è descritta da Joseph Smith, o quantomeno dalla rivelazione, come la prima creazione di Dio, la più vicina alla residenza di Dio. È giusto? Ma sì, questo non ha un peso nella vita di un fedele, no? Beh, diciamo, un aspetto folcloristico. Come si diceva prima, può essere visto anche come un obiettivo di vita. Ah, ecco. Nel senso che puntare a raggiungere il massimo grado di felicità tramite l'obbedienza a tutti i comandamenti è sicuramente... diventa poi uno stile di vita. Certo. Allora, quindi passiamo a parlare un minimo della realtà italiana e tramite anche diciamo il missionarismo, no? Perché posso dire come esperienza personale che ho ricevuto anche la visita di due fedeli della Chiesa che mi hanno gentilmente fatto omaggio di un libro di Mormon, tra l'altro. E quindi come due funziona? Missionari, immagino. Due missionari, sì, americani. Come funziona questa realtà? Allora, questa realtà, per quanto riguarda il proselitismo, noi abbiamo appunto dei missionari che svolgono un lavoro di evangelizzazione, cioè di insegnamento del Vangelo a tutte le persone. Abbiamo sul campo circa 66.000 persone, dico persone perché nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzi dai 18 ai 25 anni, sia uomini che donne, quindi ragazzi e ragazze, però anche persone che hanno in qualche modo terminato la loro attività lavorativa e che quindi dedicano comunque del tempo a questo tipo di lavoro per il Signore. Pensionati, quindi, diciamo, sostanzialmente. Quelle persone, classi sociali che hanno il tempo. Esattamente. Okay, perché cosa che volevo sottolineare è come il nostro clero sia comunque sotto forma di volontariato, quindi ognuno di noi poi ha una propria vita sociale, con un lavoro, con una famiglia. Io ad esempio sono sposato, due figli e faccio il libero professionista, ecco. Sì, sì. Svolgo comunque una vita, tra virgolette, normale. Sì, sì. E il lavoro dei missionari appunto dura 2 anni, è una chiamata che viene dalla prima presidenza e su richiesta del singolo, chiaramente, che manda una domanda formale alla prima presidenza, che può accettare o meno questo tipo di domanda. E viene la chiamata di questi ragazzi che per 2 anni si autofinanziano, quindi o mettono da parte i soldi prima di partire dalla missione, oppure le famiglie contribuiscono mensilmente per il loro mantenimento, anche se poi la loro quota mensile si riduce semplicemente al cibo, ai vestiti, in quanto giustamente... hanno uno stile di vita molto fanno questo tipo di lavoro. Esatto. Però sì. C'è anche una richiesta di un contributo annuale, giusto? La decima ai fedeli. Sì, esatto. Noi crediamo, così come è scritto nella Bibbia, che i fedeli debbano versare il 10% delle proprie entrate alla Chiesa. E questo serve per... Sì, giusto, questo è bene. Lo diciamo anche... delle chiese, delle varie cappelle. Lo diciamo anche per Mitromi, no? Sì, ti sì, già, perché lui, vabbè, ovviamente è un... invece, è un benestante. Invece una cospicua della Chiesa. Però una cosa positivissima, secondo me, è giusto che il fedele contribuisca alla vita della sua comunità, dal mio punto di vista. Sì, ed è giusto ovvio, che non vi contribuisca invece chi non fa parte di quella comunità. E su questo, i credenti di altre religioni. Sì, la 8 per sempre, 1000, esatto, ma infatti, certo. Ma infatti la cosa bella, secondo me, è che proprio la Chiesa qui in Italia in un'intesa con il governo italiano del 4 aprile 2007 ha chiarito che non intende partecipare alla ripetizione della quota dell'8 per 1000. Io lo trovo positivissimo. Esatto, quindi sì. Allora, qual è brevemente la realtà italiana e anche toscana? Certo, allora, la realtà italiana, diciamo, la Chiesa è arrivata in Italia nel 1966, in realtà circa 60 anni prima è stato arrivato un missionario dagli Stati Uniti, Lorenzo Snow, che ha battezzato i primissimi membri della nostra Chiesa, però poi sono emigrati e quindi è come se, diciamo, non ci fosse stato questo episodio, è stata una parentesi, chiamiamola così. E nel 1966 fu organizzata a Firenze la prima missione italiana, quindi ufficialmente la Chiesa nasce in Italia nel 1966. A Firenze ce ne sono, accoglie un po' anche Christian Science. Sì. Sì. E a quell'epoca i membri della Chiesa erano circa un centinaio. E attualmente in Italia siamo circa 23.000 appartenenti alla Chiesa, in Toscana siamo circa 1.500 e a Livorno abbiamo circa 200 iscritti. Dove si trova? Posso chiedere il centro? Certo, la nostra centro. Chiesa si trova nel quartiere di Coteto, in via Olbia numero 4. Ex via Cohen. Dove adesso è stato costruito anche un asilo nido, quindi siamo di fronte a questa realtà. Ed è anche il luogo della riunione domenicale, no? Esattamente. Che cosa fate ogni settimana? La domenica mattina, dalle 9 a mezzogiorno. Le prime due ore abbiamo delle classi dedicate ai singoli fedeli, divisi per classi a seconda se sono dei bambini, se sono dei giovani, se sono degli adulti. E per poi avere la riunione cosiddetta sacramentale, che è la riunione principale dove noi prendiamo il sacramento, che si svolge dalle 11 a mezzogiorno. Che appunto non è una messa ma una riunione sacramentale. Si chiama riunione, diciamo, sacramentale appunto. Dove prendiamo il sacramento, quindi spezziamo il pane e questo viene distribuito, benediciamo l'acqua e viene servito. Ecco, allora diciamola questa piccola parentesi, appunto voi non utilizzate il vino perché ritenete appunto di non dover assumere sostanze eccitanti per mantenere il corpo puro in quanto tempio, giusto? Esattamente. Come nello yoga, no, tra l'altro. Sì, sì, sì, infatti, perfettamente in comunione con andiamo quello. Direi andiamo con l'ultimo in brano musica della playlist, e poi torniamo per sì. Le segnalazioni anche appunto se il sì, nostro ospite, se il nostro ospite ne avrà. Ce ne ha, assolutamente certo. Sì. Allora, ci ascoltiamo, che mi sembra anche molto a tema, una canzone dei Coldplay dall'album Rush of Blood to the Head, God Put a Smile Upon Your Face. Perfettamente. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God gave you style and gave you grace. Cari seguaci, siamo verso le note conclusive. Cari discepoli, assolutamente sì. Dunque, il nostro ospite voleva fare una rettifica, una precisazione sul sì. Concetto di decima. Una precisazione, infatti, sì. Volevo sottolineare come il fatto che nella Bibbia troviamo scritto in Malachia che laddove noi siamo disposti a donare la decima, il Signore poi ci aprirà le cateratte del cielo. Quindi in realtà noi sì, è vero, versiamo la decima, in qualche modo contribuiamo alle spese che chiaramente la Chiesa ha, che sostiene anche per noi, perché quando utilizziamo le nostre strutture chiaramente queste hanno un costo, però in realtà poi riceviamo tante benedizioni da parte di Dio, in quanto ce le promette. Io posso dire che questo avviene veramente tanto. E poi... è anche una pratica religiosa, quindi. Esattamente. Cioè, con un significato spirituale. E poi avete anche quest'altra tradizione di fare un digiuno mensile. Esatto, noi la prima domenica del mese digiuniamo per 24 ore, ci asteniamo dal cibo e dall'acqua, e la somma che avremo speso per comprare il cibo, per fare questi due pasti, li doniamo alla chiesa, la quale li gira poi ai poveri. Quindi provvediamo anche ai bisognosi in una sorta di autofinanziamento in questo modo. Sì, anche c'è un aspetto purificatore anche in anche c'è un aspetto digiuno, purificatore, infatti. Esatto, sì, ci avvicina molto a Dio questo. Certo. Bene, andiamo con qualche segnalazione. Allora, siamo in un periodo particolare in cui ricorre il Vesak o Vesak esoterico. È una ricorrenza mobile, nel senso che viene celebrata in un periodo in cui il sole si trova nel segno del toro. Secondo alcuni movimenti spirituali è una adunanza di iniziati che avrebbe luogo ogni anno in un giorno preciso in questo periodo in una valle non meglio identificata alla pendice della montagna sacra Kailash. Ricorda il Kumbh Mela, ricorda il Kumbh Mela, però il Kumbh Mela è pubblicissimo, tant'è che arrivano milioni di persone, invece questo è molto segreto, solo per iniziati. E gli iniziati vanno su questo monte Kailash, invocano le forze spirituali e meditano finché appaiono per breve tempo Buddha insieme agli altri grandi iniziati, quindi Cristo, Mosè, Krishna, Maometto. E la celebrazione del mondo parte, fu avviata dagli scritti di Alice Bailey, ispirati al maestro detto il tibetano. Nel libro delle Bailey è detto che l'effetto della celebrazione sarebbe un flusso di forza spirituale che arriva al mondo intero. Ecco, quindi immagino non ci sia un sito. C'è il sito, assolutamente sì, perché viene celebrato comunque. Andare, no, assolutamente no. Beh, devi andare a Kailash e sperare di incontrare questi iniziati. Magari però... riceverai anche stavolta un'email. Mi sa di sì. Comunque, viene celebrato anche in Italia da vari movimenti, da vari gruppi. Il sito per trovare tutti gli appuntamenti è Vesak con la Vesak.it. Io vi segnalo quello Borgo dei Semplici, località Santa Sofia, Badia Tedalda, in cui ci sarà appunto Vittoria Fornari che conduce una celebrazione del Vesak. Per ulteriori informazioni il sito è www.cerchiobianco.org. È gradito l'abito bianco o chiaro, puoi portare una bottiglia d'acqua se vuoi, l'unico pagamento che ti viene richiesto è un fiore. Come sono proprio New Age, sì, questa... poi hippie, sì. E poi vi segnalo l'acqua anche lì. L'acqua ha un significato spirituale universale. E poi vi segnalo che il Circolo World di Livorno, Unione Atei Agnostici e Razionalisti, organizza quattro appuntamenti sulle origini del cristianesimo. Introduce il dottor Gaetano Sciccone alla libreria Belforte, qui a Livorno appunto, da martedì 8 maggio alle 17.30 e poi per altri tre incontri, sempre il martedì alle 17.30, l'ultimo sarà 29 maggio, quindi, e l'ingresso è assolutamente libero e gratuito. Sì, c'è anche il rinfresco? No. Allora, non verrò, allora. Va bene, diamo come al solito la facoltà di un saluto, di una segnalazione, e eventualmente un qualcosa. Se ci sono prossimi eventi o appuntamenti qui certamente. In zona. Certo, allora, volevo ricordare a tutti che in maniera gratuita i nostri missionari più volontari che conoscono molto bene la lingua inglese fanno dei corsi per vari livelli il martedì sera dalle 19 alle 20 presso la struttura della nostra chiesa. Invece dalle 18.30 alle 20 del martedì e del mercoledì vi è la possibilità di avere accesso alla più grande biblioteca genealogica di tutto il mondo tramite internet. Quindi per chi volesse, fosse interessato a fare una ricerca dei propri antenati, può venire in chiesa e fare questo tipo di ricerca. Chiaramente anche la domenica mattina noi accogliamo ben volentieri tutte le persone che vogliono conoscerci meglio, dalle 9 a mezzogiorno, chiaramente la funzione principale poi è dalle 11 a mezzogiorno, quindi è aperta a qualsiasi persona voglia unirsi, e ricordando sempre che, come ho detto un po' all'inizio, alla base del nostro credo c'è la preghiera personale. Quindi qualsiasi persona che voglia ricercare Dio, basta che si metta in preghiera con fede e può ricevere una risposta. Va benissimo. Bene. Allora, noi ringraziamo tantissimo il nostro ospite, che è stato veramente gentilissimo, preparato e insomma ci ha fatto molto piacere averlo qui. Anche per me, ringraziamo Fede, che ha tenuto insieme le fila della trasmissione. Sì. E vi lasciamo agli amici di Arena Top Again, che ci hanno anche aiutato in qualche prova. Prova tecnica che forse qualcuno di voi ha incrociato. Sì. E vi diamo appuntamento come sempre a giovedì prossimo. Sì. Assolutamente sì, non sappiamo ancora l'argomento. Scriveteci soprattutto a testocrociocchio@gmail.com. Sì, è probabile che diremo qual è il premio, finalmente il premio, quindi sì. Rispondete alle domande che trovate sul blog. Le trovate perché ce le metterò stasera, no? Perché ci siamo già. Va bene, benissimo. Allora diamo via la sigla. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Only sky. Imagine all.